Oggi è una lezione un po' particolare perché abbiamo un ospite con noi, e già ve l'avevo annunciato, il tema di questa lezione sarà ovviamente il tema affrontato sul libro che ha scritto il nostro ospite, che adesso vi presenterò, che è Oltre il rumore, perché non dobbiamo farci raccontare internet dai giornali e dalla TV. È un libro che trovate naturalmente su internet. Soprattutto su Amazon. Sì. No, c'è anche in qualche libreria che ha comprato qualche copia da Amazon, tipo Oepli, queste librerie scientifiche così, però mi piacerebbe dire è andato rapidamente esaurito. No, non è andata così, e che ne hanno prese così poche. E che poi, cioè, il modo più facile per trovarlo è su Amazon, sia in elettronico sia in, esatto, in cartaceo. Si può ordinare anche il cartaceo, viene stampato. Eccolo qua, Oltre il rumore, perché non dobbiamo farci raccontare internet dai giornali e dalla TV. Allora, il nostro scrittore nonché ospite di oggi è Antonio Pavolini, il quale è una persona che ha diverse sfaccettature. Allora, nella vita e nel lavoro lavora per una grandissima azienda che è TIM ed è digital analyst e quindi anche analista dei media per Telecom Italia, insomma, che adesso si chiama TIM. E poi è una persona che sta nell'ambito di internet e che lavora, insomma, che studia internet da tantissimi anni, si può dire dall'inizio, cioè siamo la generazione, come si dice, ponte che l'ha vista nascere internet, no? Voi siete la generazione che siete nati, già internet esisteva, noi siamo la generazione che internet l'ha vista nascere, quindi è uno dei primi podcaster, uno dei primi blogger italiani. E potete trovare anche le registrazioni di varie trasmissioni radiofoniche, interventi che sono stati fatti riguardo diversi temi nell'ambito del giornalismo, nell'ambito sempre dei social media, di come si sono evoluti, di come si sono sviluppati, quindi insomma è un profondo conoscitore del settore, come si può dire. E oggi ci racconterà qual è fondamentalmente, cioè qual è una visione che va un po' controcorrente rispetto a quella che noi riceviamo continuamente appunto dai media classici, cioè i giornali e le TV che parlano di internet, e comunque quando si parla di internet, soprattutto in quest'ultimo periodo, si parla molto di problemi di privacy, si parla molto di pericoli che vengono dalla rete, si parla sempre di quelli che sono gli algoritmi, come possono essere pericolosi nei confronti dell'essere umano, insomma delle proprie ricerche, di quello che effettua, di come naviga sulla rete, però poi vengono sempre raccontati in qualche maniera dagli stessi media classici, e quindi è un po', voglio dire, una ridondanza che si forma, no? Quindi cercare invece di andare un po' controcorrente e di spiegare come in qualche maniera internet, con che tipo di idea è nato e che cosa, che potenzialità rappresenta oggi, anche perché l'idea originaria, anche come dicevamo ieri, di internet non era assolutamente, se vogliamo, quella del controllo. Noi quest'anno stiamo facendo, improntando, diciamo, le lezioni soprattutto su una valutazione di quanto dietro la costruzione sia di un software che di un hardware, o comunque di un applicativo o di una piattaforma, ci sia comunque sempre un'ideologia di riferimento, cioè non si può costruire qualcosa senza un'idea in qualche maniera. E quindi dice, qual è l'ideologia che sta dietro ai social network, qual è l'ideologia che sta dietro alla creazione degli algoritmi, che potrebbe essere un tema interessante. Naturalmente internet all'inizio aveva l'idea di essere uno strumento estremamente libertario, insomma si presentava come qualcosa di estremamente libertario. Poi si è evoluto. Vabbè, ti lascio la parola perché io basta. No, beh, chiaramente qualsiasi spunto. Sì, tanto abbiamo 2 ore, mi pare di capire. Esatto. Ecco, allora facciamo che anche le domande si possono fare durante. Poi lasciamo uno spazio alla fine, però. Io ringrazio intanto Massimiliano Artibani per questa lusinghiera presentazione. È vero che lavoro per TIM. Non faccio più in realtà l'analista da qualche tempo, adesso sono tornato a fare il comunicatore digitale, nel senso che mi occupo del sito istituzionale soprattutto, vi lascio immaginare in questi giorni cosa può essere il sito istituzionale di Tim. Però c'è stato un periodo in cui, e che poi ha ispirato anche il libro, ho dovuto studiare proprio i grandi trend nel mondo dei media, perché scrivevo la parte dei piani industriali su un mercato, quello dei media, che per noi era un mercato addressable, cioè noi dicevamo qui c'è la convergenza, dobbiamo fare soldi anche lì, c'è uno spazio per noi, cosa facciamo? E quindi per anni mi sono dovuto leggere tutti questi terrificanti info provider, quindi Forrester, Ovum, Yankee Group, queste cose che sono però soprattutto analisi di mercato, sono molto limitative secondo me, questo è un po' quello che ho capito. Allora ho cominciato a studiare molto anche invece gli analisti di trend come Analyst Mason, come Ovec. E in quegli anni un po' questo, un po' sperimentando direttamente gli strumenti man mano che si manifestavano, per esempio il podcasting, che è anche un'antica passione, e infatti non a caso sto registrando quello che stiamo dicendo oggi perché lo pubblicheremo online. Il mix tra l'osservazione diretta, la sperimentazione, lo studio degli info provider, l'analisi di mercato, alla fine mi ha fatto attraversare la transizione digitale da tante possibili angolazioni, ho provato a fermarlo in questo libro, che è considerato un libro estremamente duro. Tutti quelli che l'hanno letto lo considerano un libro molto critico nei confronti soprattutto dei media tradizionali. Però devo dire che se ne è parlato abbastanza anche al Festival di Perugia, eccetera, ci sono stati grandi dibattiti, anzi ve lo dico, chi di voi è interessato a queste cose, è bene che un salto a Perugia magari questo weekend, se riesce a farlo ve lo consiglio, perché è il luogo dove si consuma tutti gli anni questa battaglia tra un racconto dominante che viene fatto della transizione digitale di internet da parte dei giornali e invece un mondo anche soprattutto di giovani giornalisti che prova in qualche modo a fare breccia in questo racconto. E quando parlo dei giovani giornalisti, io ne parlo sempre in termini molto lusinghieri, facendo un esempio che fu il terremoto ad Amatrice dello scorso anno. La primissima scossa, se ve la ricordate, avvenne a Ferragosto. E tipicamente nell'immaginario collettivo, quando succede un terremoto a Ferragosto, com'è che lo ascoltiamo, lo seguiamo? Ancora, devo dire, per quanto esista internet e tutto quanto, però l'autoradio, mentre va in vacanza, i fili diretti del GR1, e poi vabbè anche Rai News 24, che abbiamo tutti, cioè sono un po' la fonte principale. E io rimasi colpito ad agosto dalla straordinaria qualità del lavoro che venne fatto dalle redazioni della RAI, che erano vuote dei titolari, dei giornalisti, diciamo, storici. E a Ferragosto c'erano tutti i ragazzi appena usciti dalle scuole. Fecero un lavoro straordinario, usando soprattutto internet in background come strumento di verifica, e non fecero errori clamorosi, come quelli che invece poi la stessa RAI tornò a fare quando tornarono i titolari con la seconda scossa, ve la ricordate, quella più tra Lazio e Umbria, dove uscirono fuori i dati, poi a parte il numero delle vittime, no? Tornò quella bruttissima abitudine di sparare alto senza verificare per avere l'attenzione, e poi anche l'errore sulla magnitudo, fu sparato una magnitudo molto alta, poi ci fu la correzione, perché i giornalisti che, diciamo, della vecchia guardia erano tornati a fare il loro lavoro ignorando internet, perché internet è il male. Internet, un giornalista professionista non la deve usare neanche per verificare le fonti, che dovrebbe essere il mestiere numero uno. Allora, già da questo vorrei chiarire, ecco, che non è un'accusa all'intera categoria professionale dei giornalisti, ma direi una bipartizione delle responsabilità tra vecchia generazione di giornalisti e nuovi giornalisti entranti. Domanda, prego. Quindi secondo lei nel futuro ci sarà un'integrazione totale del media su internet e quindi avremo i classici media come Rai e la 7 che utilizzeranno molto meglio lo strumento e quindi non ci saranno più queste limitazioni, oppure questi vecchi media moriranno del tutto e si creeranno dei nuovi media basati tutto su gli strumenti? Ma dentro ogni grande media outlet, come dicono gli anglosassoni, organizzazione mediatica, sia che sia la 7, eccetera, c'è una generazione montante di professionisti che piano piano introdurrà delle pratiche. Certo, quello che noto io, avendo anche lavorato nelle redazioni, è che per esempio i media pubblici sono più avanti, perché hanno meno problemi di sperimentazione, meno drammi con i diritti, per esempio il problema dei diritti e così via. Il podcasting è stato adottato molto prima dalla Rai e molto dopo dalle radio commerciali, perché ci sono dei vincoli proprio del prodotto commerciale informazione che rendono tipicamente il redattore di Canale 5 un po' più lontano dall'adozione di queste tecnologie. Non a caso la Rai ha avuto per tanto tempo i suoi video su YouTube, li ha tolti dopo molti anni. Mediaset fin dall'inizio, se qualcuno pubblicava un video rippandolo dalla televisione, metteva di mezzo gli avvocati. Invece la Rai l'ha tolto solo con Gubitosi qualche anno fa, ma per un riflesso politico che adesso non voglio approfondire, e tra l'altro poi con Campo Dall'Orto li stanno rimettendo, insomma è più un, come si dice, un vai e vieni decisionale, tipico della Babele decisionale che è la Rai. Però la Rai è più aperta ai social media, per esempio, forse c'è anche un'eccessiva proliferazione di account di social media in Rai, però alcuni li usano molto bene. Io faccio sempre l'esempio della trasmissione di Radio 3 della mattina, Tutta la città ne parla, dove loro raccolgono le telefonate che arrivano durante la rassegna stampa di Radio 3 prima pagina, e in base a quello decidono addirittura il tema della trasmissione, e poi per tutta la trasmissione dialogano con il pubblico attraverso Twitter, e quindi Twitter arricchisce il contenuto del programma, che è una cosa che in radio si può fare. In TV gli inserzionisti dicono ma qui stiamo spostando gli occhi delle persone da uno schermo all'altro, chi guarda i miei spot se la gente poi sta sul telefono, no? Quindi già vedete che la radio è un mezzo più social, è più facile rispetto alla televisione. Domande ok, però non proprio. Attenzione, non spaventatevi se mi avvicino alla persona che fa la domanda, perché io sto registrando, quindi almeno viene anche la sua voce. Sì, allora, un'altra domanda invece piuttosto importante. Parlando sempre del concetto di media connessione con internet, per esempio già in America vediamo che molti media, anche quelli là dei concetti commerciali basilari come fast food, altri campi, hanno un loro social media, hanno un Twitter. Invece una cosa ho notato è che per esempio in Italia questo non esiste, cioè tu non vedi che una compagnia italiana c'è il suo Twitter, per esempio. Dipende sempre se hai una comunicazione commerciale o istituzionale. Alcune aziende hanno proprio l'obbligo di avere ormai un canale, per esempio Tim c'ha un canale istituzionale e uno commerciale, è una grandissima azienda, è impensabile che non ce l'abbia. È vero che l'Italia è il paese delle piccole e medie imprese, quindi anche proprio per come siamo fatti noi, dove le grandi aziende sono tutto sommato poche, non c'è da sorprendersi. Allora, io ho preparato una specie di, fate pure le domande durante, ripeto, una presentazione PowerPoint che da un lato sintetizza un po' questo libro che ho scritto, dall'altro lo attualizza, perché il libro comunque ha 2 anni e in questi ultimi 2 anni sono successe altre cose. Velocità, degli elementi. E quindi proviamo oggi soprattutto a parlare dell'impatto che hanno radio, giornali, televisioni, quindi media mainstream, sulla percezione comune della rete. Ok? Allora, la prima cosa che forse incuriosisce è vedere in che modo veniva, diciamo così, raccontata la rete anche soltanto 7 anni fa. Nel 2010, se dovevi fare notizia parlando di internet, dovevi intervistare uno dei grandi visionari della rete, David Weinberger, e titolare Internet è libertà. Esaltavi la rete come strumento per il pluralismo, per la libertà di espressione. solo 5 anni dopo, se volevi fare notizia con internet, non potevi che farlo parlando di come la rete abbia tradito queste aspettative. Ecco, già questo dice abbastanza. E questa cosa che succedeva sui giornali succedeva anche in quel fenomeno un po' triste che si chiama il marketing delle idee, cioè le persone che scrivono i libri, da un lato con grande anche rigore scientifico, no? Perché Shelley Tarkle, che è l'autrice di questi due libri, è una persona di grande preparazione e che soprattutto ha sempre supportato tutte le proprie affermazioni con grandi un lavoro straordinariamente rigoroso, raccolta di dati, eccetera. Il problema è che poi il modo in cui il libro deve essere venduto, perché il libro deve comunque è anche un prodotto e fa parte di un'industria, che è l'industria editoriale, se vuoi vendere il libro tu devi far passare un messaggio che funziona in una certa epoca, e quindi Life on the Screen, che risale addirittura prima degli anni 2000, diceva: ragazzi, internet in realtà non vi isola nelle camerette, anzi abilita la vostra vita reale. Questo era il messaggio molto tecno-ottimista di allora, forse persino esagerato, ok? Però la stessa autrice poi, 10 anni dopo, se non sbaglio, scrive Alone Together, che dice: no, in realtà stiamo costruendo una nuova solitudine. Ora, potremmo dire che è una persona di straordinaria onestà intellettuale e che quindi ha ammesso i propri errori ed è giunta a conclusioni diverse. Però diciamo che alberga sempre un po' in tutti noi in questi casi il sospetto che questa persona abbia soprattutto raccolto prove, nel primo caso e nel secondo caso, a carico dell'imputato che gli faceva comodo. Se tu raccogli scientificamente prove sempre a carico di un solo imputato, non puoi raccontare tutta la storia. Quando per esempio ce la prendiamo con l'algoritmo di Facebook per aver truccato le elezioni, favorito le elezioni di Trump, la Brexit, eccetera, sì, è vero che è successa questa cosa, ma non è che stiamo dicendo che senza questa cosa avrebbe vinto qualcun altro. E tutti quelli che hanno letto un po', insomma, forse voi avreste dovuto leggere Chomsky e Popper per capire l'influsso della televisione e dei media tradizionali, beh, insomma, negli Stati Uniti, se la TV non avesse affatto capito che cos'era Trump in quel momento, forse Trump non avrebbe vinto le elezioni. Cioè, il problema è che negli Stati Uniti le grandi network di informazione riflettono il punto di vista cosiddetto liberal, che è quello espresso dalle due coste, la costa est e la costa ovest, che è dove fondamentalmente i democratici vincono, ma non hanno mai capito niente di quello che succede in mezzo, dove ci sono circa 150 milioni di americani, molti dei quali dormono con la pistola sotto il cuscino come Timothy McVeigh. E questi erano tutti elettori di Trump che però non hanno mai guardato un telegiornale in vita loro, fino a quando non è apparso Fox, un nuovo operatore per loro. Non è che Murdoch fosse fascista, è che Murdoch ha individuato un meraviglioso mercato per loro. Tra l'altro in Italia Murdoch ha trovato un altro mercato completamente diverso per l'informazione. Quindi vedete che lui è un uomo di business. Poi potrà anche avere delle idee un po' di destra, per carità. Però questa gente poi a casa vede Fox News, quando si sposta ascolta le talk radio digitali, dove ci sono questi tribuni tipo Pat Buchanan, poi eletto che democratico. È chiaro che c'era un brodo clamoroso pro Trump che i media tradizionali non vedevano, perché si rinchiudevano nella loro bolla perbenista obamiana e poi clintoniana e poi supportata, come sapete, del grande potere finanziario, eccetera. Quindi non l'ha vista questa cosa. E adesso che Trump ha vinto, tutto questo mondo dell'informazione americano alza le mani e dice: non è colpa nostra, è Putin che ha truccato le elezioni, oppure è Facebook con l'algoritmo. Vedete bene che sì, magari ha avuto un ruolo, ma è quello che ha fatto vincere Trump, è quello che ha favorito la Brexit. Fatevi sempre delle... anche quando sono supportati scientificamente questi dati, ci sono gli studi splendidi, quello di Walter Quattrociocchi, per esempio, sì, va benissimo, però non spiega tutto il fenomeno, spiega una parte, quindi leggetelo e poi mettetelo in un contesto. Ok? E prendete anche prove a carico di altri imputati, non solo uno. Gli algoritmi si autoalimentano in qualche maniera, sì, sì, sono macchine pensanti, sono fenomeni balistici, tu li fai partire poi il missile esattamente dove atterrano. Sempre in questo filone letterario di grande successo, dove tu capisci che aria tira, e capisci come ottenere un titolo di giornale e fai un libro in un certo modo. Questo signore si chiama Andrew Keen, io l'ho conosciuto al Festival State of the Net a Trieste. Salì sul palco in un momento in cui ancora la rete veniva percepita come un'opportunità più che un rischio. Però ci colpì a tutti molto perché entrò nella discussione a gamba tesa dicendo: il mondo qui sta per finire, il mondo sta per bruciare ed è tutta colpa di internet. Perché? Perché internet toglie il potere alle persone competenti e lo dà ai dilettanti. Perché internet non è la risposta ai problemi. Vedete bene che poi questo è un tema che rientra molto anche nella semplificazione, nella banalizzazione politica di questi giorni. No. Adesso al potere sono arrivati i dilettanti, sono arrivati gli incapaci, sono arrivati gli incompetenti, quelli che scrivono con le K, quelli che scrivono in modo sgrammaticato. Cioè, è facile strumentalizzare le cose quando tu fondamentalmente devi vendere o consenso politico o banalmente un libro, come faceva Andrew Keen. E poi c'è anche una visione tecnopessimistica, che tra l'altro è un sottoinsieme di un problema più grande, che è il tecnodeterminismo, cioè pensare che tutto dipende dalla tecnologia. All'interno del problema del tecnodeterminismo c'è un altro problema, il neoluddismo, il tecnopessimismo, per cui quando arriva una tecnologia si corrompe una intera generazione. No. Allora, nel racconto degli adulti, noi siamo rinchiusi, noi, scusate, non volevo dire noi, intendo soprattutto voi, ma anche chi è più piccolo di voi, i ragazzi sono rinchiusi in un mondo senza vedere il mondo reale. È uscito un libro di Aldo Cazzullo, che è un importante giornalista, a Natale, che si chiama Metti via quel cellulare. È stato un best seller. Perché? Perché i nonni, prima di Natale, verso il 15 dicembre, dicevano: cosa, o anche i padri, cosa regalo a mio figlio che è al cenone anche quest'anno, mentre noi parliamo e ci facciamo gli auguri, starà lì a spippolare tutto il tempo? Sotto l'albero gli facciamo trovare un libro che si intitola Metti via quel cellulare. Poi, non credo che l'abbiano letto, un libro. Però posso dirvi che leggendolo non va molto oltre il titolo. Cioè, il problema è il device, cioè il problema è l'hardware. Questa visione neanche indaga su cosa succede tra un cellulare e l'altro. Sul fatto che molti ragazzi, ma anche molto più piccoli di voi, usano il cellulare per abilitare il proprio sistema sociale nel mondo reale, usando luoghi tipo WhatsApp, Telegram. Non è un mondo parallelo, no? Però metti via quel cellulare, funziona. La verità è che quelli della mia generazione, che sono quelli a sinistra, quando erano piccoli, non è che avessero questa vita sociale straordinaria. Ascoltavamo il racconto di un'unica grande bolla, che era quella televisiva. Così come oggi, i ragazzi spesso usano le nuove tecnologie in realtà per socializzare, per stare insieme. Quindi è completamente diversa la situazione. E poi soprattutto, che cosa è cool nelle nuove generazioni? Molti adulti dicono: state tutto il giorno su Facebook. Non è vero, non ci stanno su Facebook. Se ci stanno, ci stanno proprio per rassicurare la generazione precedente. O addirittura il fidanzato. Nella foto profilo, tipicamente, il quindicenne è abbracciato alla fidanzata, che così è tranquilla, vuol dire che non sta su Facebook per rimorchiare. E poi tutto il sistema di relazioni che sta su Facebook subisce il controllo sociale dell'insegnante, degli amici dei genitori. Cioè, quindi non è quello il posto dove i ragazzi dicono organizzano la loro vita. Sono scappati subito, intorno al 2013 sono già scappati, cioè i dati sono quelli di We Are Social, qui scusate non li ho citati, però insomma a un certo punto sono scappati dove? In due aree, una sfera pubblica e una sfera privata. Perché avevano bisogno non solo, vedete in basso, WhatsApp e continua, WhatsApp, Telegram, ad essere un luogo dove si organizza la vita nel mondo reale dei ragazzi, ma c'era anche bisogno di una sfera pubblica al riparo dello scrutinio, del controllo sociale che si riproduceva perfettamente su Facebook, quindi scuola, famiglia. E dove sono andati? Sono andati a cercare altri linguaggi su YouTube, oppure a cercare persone con cui condividevano gli interessi su Tumblr, ma Tumblr, come vedete, già nel 2014 siamo arrivati noi vecchi e li abbiamo cacciati. È diventato, esatto. Però c'è stato un paio d'anni che negli Stati Uniti Tumblr era il social più popolare in questa fascia 13-19. Snapchat continua dal 2014, il primo forse veramente che ha avuto successo con i ragazzi, che tuttora esplode, è Instagram, che peraltro, come ben sapete, è sempre Facebook, così come WhatsApp è sempre Facebook. Quindi una sfera privata per abilitare la vita reale e poi una seconda sfera pubblica al riparo dello scrutinio, del controllo sociale. In questo racconto dominante e tecno-pessimista, per non dire neoluddista, dei media tradizionali, che viene fatto di internet, si fa un grande uso di buzzword. Se leggete bene gli articoli, quando vengono usati certi termini, ogni giornalista la vede un po' a modo proprio, a seconda della tesi che vuole sostenere. La parola, la buzzword più abusata di questi tempi è fake news. Siamo arrivati fino al punto che se andate a un congresso medico, di quelli dove c'è il tizio col camice bianco che apre i lavori e dovrebbe parlare di stent, cioè di quelle cose per tenere il cuore, no? Di cose ipertecniche, la prima frase per catturare l'attenzione del pubblico è purtroppo viviamo nell'epoca delle fake news, della post-verità. Figuriamoci se andate a Perugia. Se andate a Perugia, su 300 panel si parte dalle fake news. Io ho parlato 2 anni fa a un panel sul brand journalism, io dovevo parlare per terzo, per la prima mezz'ora tutti i relatori hanno parlato solo di fake news. C'è questa ossessione delle fake news. Adesso, io non voglio necessariamente ricorrere alla semiotica, però un grande semiologo che si chiama François Jost, nel 2003, quindi non ieri, ci ricorda che non esiste proprietà testuale, sintattica o semantica che permetta di identificare un testo come opera di finzione. Quindi già il fatto stesso di dover utilizzare un testo esclude a priori la definizione di vero e falso. Questo a livello proprio teorico ve lo dico. Ma tornando su cose più pedestri, se parliamo dell'impatto delle cosiddette notizie false o bufale, che forse sarebbe un termine più adatto, e beh, Reuters ci dice che i siti che producono informazioni false perché fa parte del loro modello di business, che sono questi qua, hanno un impatto microscopico. Il problema è che poi vengono rilanciati dai grandi siti che fanno tanto traffico. Cioè, i siti che si scagliano contro le fake news sono i primi responsabili nel rilanciare le fake news. Io faccio sempre l'esempio della Blue Whale. Ve la ricordate la vicenda Blue Whale? Era nata in Russia. Nasce in Russia, ci sono alcuni ragazzi che si producono in atti di autolesionismo, ci sono 2 casi di suicidio per questa leggenda metropolitana, esce un articolo della, come si chiama, la Gazette, vabbè, insomma è un giornale di San Pietroburgo, ma si parla di 3-4 anni fa. Dopo l'uscita del giornale un sacco di ragazzi cercano di capire che cos'è questa moda e più persone si tagliano, poi la cosa sparisce dai media, la riprende le Iene, la racconta come una cosa di oggi e dal giorno dopo succede che sul motore di ricerca di Google in Italia le ricerche su questa pratica di autolesionismo ovviamente decollano, un paio di ragazzi si tagliano senza farsi per fortuna molto male, ma per un mese su tutti i giornali si parla di questa cosa. Nel 2000, non mi ricordo se era 1999 o 2000, uscì un film negli Stati Uniti, si chiamava Colors, in cui a un certo punto c'è una scena di 2 ragazzi che fanno una sfida di coraggio e si sdraiano sui binari prima che passi il treno e poi si tolgono all'ultimo secondo. Dopo l'uscita del film ci sono stati 3-4 morti in tutti gli Stati Uniti di gente che emulava questo comportamento. Avete sentito qualcuno chiedere la chiusura dell'industria cinematografica per questo? Ebbene, vi assicuro che dopo la vicenda Blue Whale, gli articoli chiudete l'internet ci sono stati. E questo dovrebbe, insomma, dirci qualcosa sulle reali responsabilità di questo fenomeno. Fatto sta che al termine, diciamo così, di questa operazione, che io dico al termine nel senso il 10 aprile 2018, però sta continuando e continuerà, la percezione dei grandi over the top è fortemente negativa. In particolare Facebook, per anche le ragioni di attualità che potete facilmente immaginare, il caso Cambridge Analytica, gode davvero di pessima reputazione. Tutto questo nasce dalla pratica tipica dei comunicatori di professione, sia i comunicatori istituzionali come sono io, sia i comunicatori di massa, che è quello di: io devo far arrivare un messaggio e se raccolgo prove a carico sempre di un solo imputato, quel messaggio arriverà e potrò anche dire di essere stato scientificamente corretto nel farlo. Ora, però, quando noi paghiamo l'informazione, stiamo pagando questo o qualcos'altro? Ecco, la domanda, il messaggio che vorrei veramente che uscisse fuori da stamattina è: chiedetevi sempre questi signori per cosa sono pagati e come fanno i soldi. Allora, nel 1972, quando ci fu lo scandalo del Watergate, vabbè, questa è la scena del film Tutti gli uomini del presidente, non sono veramente Bernstein e Woodward, sono Redford e Dustin Hoffman, li avrete riconosciuti, però un po' gli somigliano. A quei tempi veramente un giornale era un giornale di successo se faceva il suo mestiere di watchdog della democrazia. Perché compravi il Washington Post e non compravi News of the World? Perché tu sapevi che il primo ti informava. Ma che cosa vuol dire informare? Vuol dire ti dico le cose vere o ti dico le cose che contano per te? Ecco, anche tutta questa enfasi su vero falso, che dalla mattina alla sera esce dalla radio, dalla TV, eccetera. Sì, sarebbe meglio che dicessero cose vere, ma perché non si parla mai di che cosa è rilevante per voi? In una certa giornata? Perché durante la guerra in Kosovo era rilevante per gli americani Monica Lewinsky? Ok? Neanche sapevano che io, cioè, tu alzavi la testa a Roma e vedevi dei caccia degli F-14 in formazione che andavano a tirare le bombe su Milosevic, purtroppo non solo su Milosevic. Perché succedeva? Perché purtroppo negli Stati Uniti si stava parlando di qualcosa che poteva mandare a casa il presidente. Nixon nel 72 dovette dimettersi, Clinton non si è dimesso per quella cosa là. Adesso non voglio fare il bacchettone, secondo me doveva rimanere, però il fatto di dichiarare guerra a un paese balcanico in modo che si parlasse di qualcosa di diverso, vedete bene. E ci sono tanti casi come questo. Adesso vi invito a leggere Informazione e Potere di nuovo di quella di Castelzo, se non sbaglio, sì. O anche semplicemente adesso il titolo in bianco, però leggetevi le opere di Chomsky e di Popper e arrivate facilmente a tanti casi, il caso del Nicaragua, il caso del cardinale Popielusco, ce ne sono a bizzeffe di armi di distrazione di massa. È questo quello che conta, non tanto dirvi le balle, perché per esempio è vero, Colin Powell si è inventato che ha dovuto sostenere che Saddam Hussein aveva prodotto le armi di distruzione di massa e così è stata giustificata una guerra, gravissimo. Oppure Il Giorno titolò subito dopo la strage di Piazza Fontana che era stato un ballerino anarchico a mettere la bomba che ha ammazzato 19 persone. Ecco, erano clamorose fake news non generate dalla rete. Però il tema principale oggi, secondo me, è più la fake relevance che la fake news. Cosa è veramente rilevante per voi? Dovreste chiedervelo. E al fianco di questa domanda, in che modo viene remunerata l'industria dei media? Questa è l'altra cosa fondamentale. Ai tempi, un giornale che faceva soldi, che faceva business, quindi un'impresa profittevole, quindi non un'impresa eticamente imprescindibile, ma un'impresa profittevole, sapeva che doveva fare questo giornalismo, il miglior giornalismo, per sopravvivere. Oggi un giornale per sopravvivere cosa deve fare? Questo. questa è la televisione, non è un giornale, un medium cosa deve fare? Deve fare infotainment, deve mettere al centro qualcosa che vi terrà i vostri occhi fermi su quel supporto in modo da vendere spazi pubblicitari. Quindi si passa, scusate, da fornire alle persone strumenti per farsi una propria idea su quello che è successo. Cioè, questi signori non è che titolavano Nixon vattene, dicevano quello che era successo, ok? Vi davano a voi strumenti, poi se pensavate che Nixon dovesse rimanere, poteva anche rimanere, però raccontavano quello che stava succedendo in tempo reale, verificando le fonti, proteggendo anche le fonti, poi sull'anonimato magari apriremo una parentesi. Questi signori invece cosa fanno? Succede un fatto, Tiziana Cantone si suicida. Perché? Perché il suo video hard ha fatto il giro di internet. Le persone cosa pensano naturalmente? Chiudiamo internet. Internet uccide le persone. Ah, Lily Gruber sa che può fare 10 milioni di telespettatori raccontando fin dall'inizio della trasmissione la tesi, cioè quello che la gente deve già pensare, cioè lassù in alto nel news ticker c'è fisso Tiziana è la rete che uccide, cioè, si vede dal primo fotogramma della trasmissione, tra poco vedremo uno spezzone di questa trasmissione, perché a lei non interessa darvi strumenti per pensare e ragionare, vi interessa tenervi lì mezz'ora e appagarvi nella vostra soddisfazione di vedere la vostra opinione disinformata, pregressa, amplificata in prima serata, con il supporto in studio di ospiti che sono chiamati, scelti per, come dire, rinfocolare la vostra voglia di chiudere internet perché Tiziana Cantone si è uccisa. Poi il motivo reale per cui Tiziana Cantone si è uccisa magari lo raccontiamo tra un attimo, però adesso vorrei farvi vedere qualche immagine di questa prima serata di 8:30, vediamo. Dovete cuccare tutta la sigla. No, soprattutto guardate come sono scelti gli ospiti. Buonasera, benvenuti a 8:30 sabato. Buonasera e benvenuta Emanuela Napoli, vice assessore aggiunto a Roma. E buonasera Esther Viola, avvocato e scrittrice. Buonasera Simone Stuart, regista, e buonasera, benvenuto Paolo Prepè, psichiatra. Allora, questa sera ci occuperemo di un fatto di cui si è discusso molto in questi giorni, quello del suicidio di Tiziana, la sua donna di Napoli, e dello stupro di una 17enne di Rimini che è stata filmata da due amiche e i video sono diventati virali e incontrollabili. Tanto che ci si pone la domanda, ma la rete può anche uccidere subito dopo la pubblicità? Ecco, ma la rete può anche uccidere subito dopo la pubblicità è una frase straordinariamente sintetica, io credo, perché, adesso questa la teniamo in sottofondo. Allora, in studio ci sono Paolo Crepet, che è un grande psicologo, che però voi non conoscete perché è un grande psicologo, voi lo conoscete perché è una star della TV. Sanno che lui funziona in televisione, perché? Perché ha sempre opinioni forti e in più c'ha questo paravento, no? Della sua indubbia, diciamo, conoscenza scientifica per realizzare l'effetto Burioni non nel 2018, ma da circa 10 anni, cioè Crepet è il Burioni della psicologia e quello che dice sarà sempre suffragato, diciamo, dalla sua preparazione scientifica, a prescindere dal contesto e dal framing. Ora, qui che cosa sta dicendo la trasmissione? Che Tiziana Cantone è stata uccisa dalla rete. Tiziana Cantone ha realizzato un video hard, una cosa che non è un reato, lo possono fare tutti. Ha commesso un errore che non è un reato, quello di pubblicare questo video in una chat di WhatsApp, un gruppo privato di amici suoi. amici non tanto, perché di questi che erano nella chat, due l'hanno preso e l'hanno fatto circolare su internet. A quel punto ha fatto sì parecchie visualizzazioni, ma i giornali non ne parlavano. Solo quando ne ha parlato un giornale, questa ha cominciato ad essere derisa, sbeffeggiata, eccetera. A rilasciare però interviste in cui diceva la mia vita è finita, quindi il fatto che lei fosse sull'orlo del suicidio era abbastanza... Allora, più lei finiva nel tritacarne dei grandi media e più si avvicinava al tracollo. Quindi l'accusa, il capo d'accusa forse andrebbe rovesciato di 180 gradi in questo caso, perché la colpa è dei suoi non amici che hanno usato una tecnologia che esisteva, no? Ok? Però non puoi dare la colpa alla tecnologia, questo è il classico caso di tecnodeterminismo, e poi i media che hanno sfruttato il caso per abilitare il loro modello di business, non curanti dell'effetto che poi ci sarebbe stato su questa persona. Ok? Non è molto diverso da quando Pino Scaccia si piazza col microfono sul citofono di Albano e Romina per tormentarli tutti i giorni e fare servizi di 3 minuti al citofono sperando che questi scoppino in lacrime, visto che Ilenia non si fa più vedere. È la TV del dolore. Ora vi chiederete, Pino Scaccia è stato deferito all'ordine per questo? Qualcuno si è indignato? No, il TG ha aumentato gli ascolti e lui è diventato caporedattore cronaca. Cioè, i media premiano l'infotainment, lo premiano questo meccanismo. Perché? Perché sopravvivono grazie a questo meccanismo, sopravvivono grazie a questo modo di fare televisione. Quindi questi signori, Lily Gruber facendo questa trasmissione, non è una persona che non ha capito internet, no, è la più grande professionista dell'infotainment che abbiamo in Italia, è una grande professionista, proprio perché lo sa come funziona, che fa la trasmissione in questo modo. Poi, gli ospiti, a parte la persona indivisa che ve la ritroverete sempre, in queste, della polizia postale, in questi casi quando vuoi essere rassicurata, ma c'è qualcuno che ci protegge da WhatsApp, c'è qualcuno che ci protegge da YouTube, c'è sempre una persona indivisa. Poi c'è Crepet, e poi chi è che gratifica e giustifica la paura? Una celebrità, un attore. Quale attore chiami? Hanno chiamato un bravissimo attore, non un attore da poco, un bravissimo attore, Kim Rossi Stewart, che però si sa, e la redazione nello scegliere l'ospite lo sapeva, che da 10 anni ha sempre dichiarato in tutte le interviste di avere il terrore dei social. Cioè, è stato chiamato per ripetere questa cosa, che tra l'altro è un'opinione, perdonatemi, legittimissima. Il problema non è quello che lui pensa, ed è giusto che Valentino lo dica, ma la scelta redazionale di comporre la trasmissione a senso unico in questo modo. Ce la dobbiamo prendere con Lily Gruber o col modello di business? Il problema è che l'inserzionista, se non vede che la trasmissione viene fatta così e che non viene tirata sull'audience dei sessantenni che guardano questa trasmissione, non compra gli spazi pubblicitari. Cioè, il racconto lo decide il direttore marketing della Findus, non lo decide neanche, perdonatemi, cioè lo decide Cairo, lo decide la raccolta pubblicitaria. Ecco, una domanda che vorrei farvi a proposito di pluralismo. Il mondo virtuale non si ferma. Cioè, la domanda che vorrei farvi è: ma che cos'è che garantisce il pluralismo nella televisione? La disponibilità di più banda di frequenza? La trasparenza dei meccanismi di assegnazione alle frequenze, è questo che fa il pluralismo? Oppure una tecnologia come il digitale che permette la moltiplicazione dei canali, è questo che favorisce il pluralismo? Secondo me il pluralismo in televisione sarebbe garantito da una libera competizione tra diverse centri media, diverse centrali di raccolta della pubblicità. E in Italia la centrale di raccolta pubblicità sembra che siano 3, Sipra, Publitalia e Cairo, ma in realtà è una. e vedete che se il meccanismo è sempre questo, e se i prezzi degli spot, non si può neanche fare concorrenza sugli spot, sono sempre gli stessi, apro e chiudo parentesi, Rusconi e Mondadori, quindi Italia 1 e Rete 4, furono comprati da Berlusconi in una notte in cui Berlusconi decise di abbassare, di dimezzare il costo dei propri spot pubblicitari. Perché lui poteva farlo? Perché lui i soldi li prendeva da una botola e non si sapeva da dove venissero. Rusconi e Mondadori ai tempi ancora no. E così abbiamo avuto una sola TV commerciale nazionale in Italia. E in modo più, diciamo, facile da nascondere, nel mondo della raccolta pubblicitaria le cose oggi non sono molto cambiate da allora. Quindi non esiste pluralismo e non esiste possibilità di innovare questo modello di business. La TV rimarrà questo. E l'informazione che arriva dalla TV, ma anche dai giornali, non potrà che essere prevalentemente questa. Ora vi faccio un'altra domanda. Tocca ripassare, rivedersi tutte le slide, scusate. Un'altra domanda, ma è veramente tutto così il giornalismo in Italia o no? Certo che no. Certo che ci sono grandi giornalisti che fanno grandi inchieste che solo i giornali si possono permettere, no? E vanno a fare anche un lavoro pericoloso. Esiste per esempio ancora il giornalismo d'inchiesta. Il problema è, un giornale vive di quello o vive di questo? Allora, a cosa serve il giornalismo d'inchiesta? È una foglia di fico. Quando vai al Festival di Perugia e Francesco Merlo prende la parola e si rivolge ai giovani giornalisti che vogliono entrare nella professione, è inutile che provate a fare i giornalisti su internet. Non ci riuscirete mai perché non avete i mezzi, nessuno vi finanzia, non siete protetti dalle querele, è tutto completamente diverso, nessuno vi darà credito per andare a un mese in Afghanistan, eccetera. Il problema è che il giornale non vive di quello. Se il giornale vivesse di quello, come ai tempi di Woodward e Bernstein del Watergate, forse sì, ma oggi non vive più di quello. E detto per inciso, i nomi dei più grandi giornalisti d'inchiesta che abbiamo avuto negli ultimi anni sono nomi che evocano un senso un po' sinistro, perché sono Antonio Russo, Milan Rovatin, Ilaria Alpi. I 100 passi, come si chiamava? Impastato. Peppino Impastato. Eh sì, cioè, non solo la beffa che sono della foglia di fico, ma anche il piccolo particolare che questa gente a un certo punto muore. Non a caso sono sempre meno, lavorano sempre meno per le redazioni, ma sono sempre più dei freelance e continuano a morire. Allora, vedete bene che l'idea di fare di questi media i watchdog della democrazia non può più granché funzionare. Scusate. E di recente è uscito un articolo in cui hanno intervistato Emily Bell, che alla Columbia University dirige il Tau Center per il Digital Journalism, alla quale hanno chiesto: ma ci potrebbero essere dei nuovi modelli di business per qualcosa che possa chiamarsi veramente giornalismo e che non sia l'infotainment che abbiamo visto adesso? E dice: guarda, nel mondo digitale non sappiamo molto ancora dei meccanismi di remunerazione, come si svilupperanno e soprattutto quale sarà la willingness to pay, cioè la disponibilità delle persone a pagare, perché siamo così disabituati al vero giornalismo, non ce l'abbiamo più. Cioè, nel 72 ancora uno effettivamente diceva: ecco, questo è giornalismo. Oggi apri un giornale e non sei in grado di distinguere magari la bella inchiesta dalla Cecenia, dal trafiletto accanto di puro infotainment, oppure ancora peggio il colorino destro morboso che vedete sui siti internet. Anche quella è abbastanza interessante. Repubblica, Corriere, come hanno risistemato le loro pagine. L'informazione che loro cercano di dire, questa sarebbe la verità, è a pagamento. Però gratis per tutti tengono tutte le informazioni morbose, il clickbaiting e così via, no? Allora, Emily Bell dice: non penso che ci sia in questo momento un modello sostenuto dall'advertising che possa davvero abilitare il libero giornalismo. Cioè, il problema è questo: finché il modello è vendere spazi pubblicitari, una volta erano interruzioni pubblicitarie proprio della fruizione, oggi non è più così. Oggi semmai sei tu che vieni profilato nei luoghi dove ti imbatti in informazione e i tuoi dati vengono rivenduti agli inserzionisti delle piattaforme. Questo è il nuovo modello, però non è molto diverso, cioè si basa ancora comunque alla fine dei tuoi dati che vengono dati a degli inserzionisti, e finché c'è di mezzo questo meccanismo non succederà, dice. E quindi dovremmo forse provare ad esplorare, e qui veramente entriamo nella parte onirico-pastorale dei miei interventi, esplorare altri modi per fare soldi in generale con l'industria dei contenuti, non solo per il giornalismo. Chi è interessato ad esplorare questo cambiamento? Allora, qui c'era una volta una animazione, ma adesso io ho dovuto mettere tutto in un'unica slide, sono già cancellati i nomi. Secondo voi i broadcaster sono interessati a cambiare? No, non lo sono, perché perderebbero il controllo dell'infrastruttura di distribuzione. Non sono i produttori di format tipo Endemol, non sono quelli che gestiscono le infrastrutture, non sono interessati al cambiamento. Rai Way, Eutelsat, quelli che hanno le torri proprio per mandarti, per esempio, il digitale terrestre a casa. Le agenzie pubblicitarie dovrebbero cambiare completamente il loro modo di lavorare. Armando Testa, Pirella, i centri media, quindi Omnicom, Mindshare, Gruppi M, questi grandi gestori, ricollocatori di investimenti pubblicitari, sparirebbero. Gli inserzionisti stessi, il direttore marketing della Barilla dovrebbe imparare a fare un nuovo mestiere. A 50 anni è arrivato a 12 anni della pensione, ma chi glielo fa fare? I detentori dei diritti, quindi le leghe sportive, no? Dei programmi che tirano su il grosso della pubblicità, la Lega Calcio, le major cinematografiche, hanno interesse a cambiare il modello? No. E poi passiamo alle cosiddette Collecting Rights Society, quindi la SIAE, la RIA negli Stati Uniti. In Italia esiste adesso Soundreef, ma Soundreef ha fatto un'altra Collecting Society. Cioè, non è che si è inventato un nuovo modello di remunerazione dei diritti, ne ha fatta un'altra che funziona perché hanno permesso la sede legale a Londra. E quindi Fedez può dire: la SIAE mi fa schifo, vado da Soundreef. Cosa è cambiato? Niente. Funziona da quando alcuni più importanti sono passati dall'altra parte. Assolutamente, se no non se lo fila. Sempre quelli importanti. Allora, scusate, ma guardate la sigla SIAE, Società Italiana degli Autori e degli Editori. Ma dove sta scritto che gli interessi degli autori e degli editori coincidono al 100%? In larga misura coincidono. Ma dove sta scritto che deve essere uno l'ente che tutela nello stesso modo? Cioè, tu come autore esisti solo perché c'è l'editore. Non è così in tutto il mondo, eh. E poi anche i produttori di elettronica di consumo, Sony, Samsung, LG, no, quelli che proprio vi danno le cose per fruire contenuti, non hanno interesse al cambiamento. Vi faccio un esempio: Samsung a un certo punto ha lanciato tutta una serie di televisori che si collegavano a internet, le cosiddette Connected TV, con una piattaforma proprietaria che si chiama Smart TV. Se tu sei uno sviluppatore e dici: che bello, entro nelle case di 2 milioni di italiani, perché hanno venduto questi signori circa 2 milioni di flat screen che si collegano a internet, se voglio che la mia app venga vista su quel televisore, posso salire come se fosse Android? Come se fosse Google, per intenderci? No. C'è un tizio che io una volta ho intervistato di Samsung Italia, che si occupa dell'SDK di Samsung, che ti risponde: no, noi stabiliamo chi sale e chi non sale. Ma perché lo deve fare il produttore di elettronica di consumo se la rete è libera? Semplice, perché lui probabilmente sulla stessa piattaforma avrà fatto un accordo con, che so, De Agostini. De Agostini fa l'app per Samsung Smart TV. È chiaro che se arriva uno sviluppatore che dice: con la mia app puoi vedere tutti i documentari da tutto il mondo, De Agostini alza la bandierina e dice: no, questa qua non sale, questa app non sale sulla piattaforma, se no cannibalizza i miei 12 documentari. Quindi lo sviluppatore ti dava accesso a 10.000 documentari, De Agostini ti dice: no, su Samsung non sali perché la gente deve vedere i miei 12 documentari. Capite bene che tutta questa possibile rivoluzione, esplorazione di nuovi modelli, che vedremo poi dopo come potrebbe essere, per tutti questi soggetti significa minori ricavi, costi di riconversione industriale e professionale e disintermediazione, nel caso dei centri media, parziale o totale. Lì c'è scritto potale con la P, scusate, insomma, voleva essere totale. Questa è uno schema che racconta il tema della curva di apprendimento, no? Il problema di questo cambiamento è che è impossibile sia su scala macroeconomica, cioè un'intera industria che si oppone, l'industria dei media, sia su scala microeconomica, cioè io che ho 50 anni e che mi occupo di comunicazione in una grande azienda, se provo adesso a imparare un nuovo mestiere, giustamente quello che arriva appena arrivato, che ha 30 anni e che ce l'ha già nel sangue, diventa molto più utile all'azienda rispetto a me. Quindi io cosa faccio? Prendo una persona competente che fa anche le strategie digitali, oppure prendo un banale esecutore junior che posso pure pagare meno e anche meno protetto contrattualmente, eccetera. Cioè, e questo è il problema a livello, diciamo, di microeconomia, quindi di decisione del singolo professionista. Quindi diciamo che c'è una santa ed eterna, nuova ed eterna alleanza, per usare una frase che si sente la domenica mattina, tra il singolo professionista a livello microeconomico che si abbarbica e chiede aiuto alla grande industria, quindi a livello macroeconomico, che non aspetta altro di avere al di sotto degli impiegati che gli chiedono questo. Non cambiamo niente. Spariremo solo per ragioni, come si dice, biologiche. Finché i decisori avranno quest'età, non cambierà nulla. È chiaro che per loro è dura passare da un sistema come questo. Nel 1990 ancora l'area del sussidio, cioè dove arrivavano i soldi, dagli utenti che pagavano il contenuto, dalla pubblicità, andava tutta nella distribuzione, che poi ridistribuiva i ricavi ai produttori di contenuti e a chi deteneva i diritti dei contenuti. Era facile perché se tu avevi i tralicci, se tu avevi mandavi in orbita un satellite, se tu avevi le tipografie, se tu avevi le edicole, che erano i luoghi dove controllavi la distribuzione, eri tu a decidere le regole per tutti. Non era esattamente il trionfo della creatività e del pluralismo, ma funzionava. Questa era la previsione, il grande terrore, di quello che sarebbe successo nel 2020. Era una previsione sbagliata. Era una previsione sbagliata, e cioè che adesso che tutti possono produrre su piattaforme proprie e avere una distribuzione che è diventata una commodity perché internet dà a tutti la possibilità di distribuire, noi falliremo perché i soldi spariranno dal controllo della distribuzione e arriveranno direttamente a chi detiene i contenuti e a chi gli dà una forma, diciamo, fruibile sulle nuove piattaforme, chi quindi produce poi fisicamente il contenuto. Poi ci saranno dei soldi per i nuovi abilitatori tecnologici, cioè chi garantisce la qualità del servizio, chi fa pagare il billing, la CDN che fa funzionare bene la rete, questa era l'idea, no? E noi pensavamo che sarebbe andata così, e invece non è andata proprio così. Perché non era tanto il user generated content che faceva la differenza, e non era, figuratevi francamente se un business poteva essere abilitato dal filippino che fa la foto del figlio che casca con lo skateboard, no? Non si può fare soldi così, non si possono fare soldi neanche, però, e quello era il terrore, se una grande istituzione culturale, per esempio io faccio sempre l'esempio della Filarmonica di Berlino, la Filarmonica di Berlino da circa 10 anni produce televisivamente in proprio, trasmette in streaming e in on demand tutti i propri concerti. Loro sono i detentori dei diritti e hanno detto: sai che ti dico Decca, sai che ti dico Deutsche Grammophon, ciao, io distribuisco da solo su internet. Fanno soldi, ma non è quello ad aver distrutto l'industria dei contenuti. La vera cosa che questi signori non avevano capito è che sarebbero arrivati nuovi intermediatori, le piattaforme di over the top, Facebook, Twitter e per certi versi anche Google, che avrebbero ridefinito l'agenda dei contenuti, cioè che avrebbero fatto la nuova curation. Perché abbiamo sempre sottovalutato, in questo passaggio, il fatto che c'era una nuova risorsa scarsa. Prima la risorsa scarsa era la capacità trasmissiva. O sali sul mio satellite, o sulla mia tipografia, o il tuo contenuto non arriva alle persone. Questa era la risorsa scarsa. La previsione sbagliata era: non ci sono più risorse scarse. No, invece c'è una nuova risorsa scarsa, che è la vostra attenzione. Comunque la vostra giornata è fatta di 24 ore, ci sono i momenti pregiati in cui fruite contenuti, si tratta di conquistare su tutti i device il momento in cui i vostri occhi si poseranno su certe cose. E per farlo, hanno fallito nel farlo i giornali, hanno fallito nel farlo le televisioni, hanno fallito nel farlo anche la radio. La radio è un po' meglio, perché la radio comunque ti entra dappertutto. Però, insomma, i mainstream media hanno sostanzialmente fallito nella loro capacità di farvi arrivare contenuti nel momento in cui voi lo volete, sul device che volete, eccetera. Ci sono riusciti questi nuovi intermediatori. C'è riuscita Facebook, c'è riuscita un po' meno Twitter, però insomma sono loro i grandi distrattori che portano i vostri occhi lontano da dove i signori prima facevano i soldi. Quindi non è più Max Artimani che fa un documentario e voi vedete quello invece che guardare Amici con Maria De Filippi. No! E che voi guardate una clip di Amici con Maria De Filippi perché ve l'ha consigliata Max Artimani su Facebook. Però stiamo ancora parlando di Amici di Maria De Filippi, non stiamo parlando di una nuova e meravigliosa televisione libera dal becerume della vecchia TV commerciale. Allora, il problema è che oggi chi veramente cambia le regole del gioco sono i nuovi DJ. Nuovi DJ a livello sia di grande industria, quindi Facebook è una sorta di enorme grande DJ che decide con l'algoritmo, no? Che cosa voi volete vedere, e anche a livello di singoli amici vostri che sanno esattamente cosa volete e fanno il vostro piccolo personale DJ, e sono sempre esistiti. No. C'è anche gente che insomma a un certo punto ha smesso di fare musica e ha detto: io faccio più soldi trovando la musica giusta per voi. Perché posso farlo? Perché sono David Guetta, cioè lui è su un turntable e vede cosa succede in pista, lo vede in tempo reale, gli arrivano dati in tempo reale su che cosa le persone vogliono. Voi portate questo su scala mondiale con tutti i vostri dati a disposizione di queste piattaforme e le piattaforme sanno cosa succede in pista e che musica volete sentire. Tumblr è un caso abbastanza interessante di successo della content curation come vera e propria chiave dei nuovi possibili modelli di business. Perché? Perché su Tumblr molto raramente pubblicate voi un contenuto originale. Ecco, faccio la solita cosa che si fa a questo punto: chi di voi ha Tumblr? Nessuno. Vedi? Qualcuno ha Tumblr, però sapete cos'è Tumblr? Sì. Allora, su Tumblr le persone condividono contenuti senza averli prodotti loro. Molto simile in questo anche a Pinterest, per certi versi. Cioè, è un luogo dove raramente tu metti un contenuto originale, però trasmetti quello che ti interessa in quel momento, anche un po' un pezzo della tua personalità, attraverso contenuti prodotti da altri. Quindi siamo tutti DJ per tutti. Ora, è chiaro che pensare di portare i codici che abbiamo sempre avuto, che si sono sviluppati in decenni di cultura broadcast, soprattutto un paese come il nostro, l'Italia, dove a un certo punto il broadcast decideva non solo l'agenda dell'informazione, ma proprio che prodotto esiste e che prodotto non esiste, oppure che politico esiste e che personaggio politico non esiste. Esempio: a un certo punto a Follini, che stava per far saltare il centrodestra, non fu detto ti buttiamo fuori dal centrodestra, fu detto ti buttiamo fuori dalle TV. Avete più visto Follini in TV? Abbiamo visto Tabacci, che però è andato da un'altra parte dove qualcuno lo faceva andare in TV. Sempre la TV. Se noi abbiamo 30 anni di questa cultura, che proprio esprime direttamente tutto il nostro universo di riferimento, applicare quei codici al nuovo mondo è particolarmente complesso. E lo vediamo spesso su YouTube, dove le grandi star di YouTube, cioè quelli che fanno più di 1 milione di follower, magari sono arrivati a fare questo numero riuscendo davvero a essere creativi, a scrivere nuovi linguaggi, però una volta arrivati a 1 milione, che devono fare? Comportarsi come Selvaggio Lucarelli, cioè passare tutti i video a rispondere agli hater, perché questo funziona perfettamente. Quindi quando diventi una celebrità definita come tale dal vecchio sistema, anche se hai 18 anni, se sei un po' furbo, tu dici: che faccio? Continuo a creare, a fare cose nuove? No, o mi metto insieme come fanno VJ e Lili Meravigliano, fanno i video insieme. Quindi vi ricordate, scusate, perdonatemi, quando Mediaset cominciò a suon di soldi a fare dei grandi galà la sera con tutte le star prese dalla Rai che non c'aveva più soldi per pagarle? Quindi cominciarono a fare trasmissioni con Vianello, Mondaini, Mike Bongiorno, cioè stiamo parlando dei primi anni 80. Voi forse non li avete potuti vedere, però vi assicuro, quelle trasmissioni non avevano un testo, non c'erano gli autori, non c'era Garinei, non c'era Age, non c'era Scarpelli, non c'era Giovanni, non c'era nessuno. Erano loro in abito la sera che improvvisavano davanti alle telecamere. Tanto a Berlusconi interessava dire: ce li abbiamo noi. Agli inserzionisti interessava dire: beh, dove devo mettere i soldi? Sulla Rai, dove non c'è più Mike Bongiorno, o su Canale 5? Così ha funzionato. Allo stesso modo un po' sta succedendo anche adesso, cioè non c'è più bisogno di un testo, non c'è più bisogno di creare, hai 1 milione di follower, è più facile fare, coltivare la fan base mettendola contro una hater base. E questo è quello che fanno, ripeto, i più giovani e non i vecchi. Perché? Perché conviene ancora ragionare così. Del resto, se gli esempi dall'alto arrivano, che so, Selvaggio Lucarelli fa pure bene a farlo, perché funziona. Ha un piede nel broadcast, un piede nel mondo della rete, no? E quindi, guarda caso, diventa direttore di cosa diventa? Di Rolling Stone. Cioè, web, ok, però... Allora, se lo fa lei, va pure bene, perché, caspita, mi tolgo il cappello. Il problema è se poi la copia la Boldrini, il presidente della Camera. Della Camera che dice: per sollevare il tema dell'odio nei confronti delle donne, io non dico, quando vi insultano, non dico: ragazzi, usate, le istituzioni funzionano, ragazze, vi proteggono, quindi denunciate, chiamate la polizia. No, non vi dice questo la Boldrini, vi dice: screenshottate gli hater. Cioè la seconda carica dello Stato, la terza cos'è? Carica dello Stato, vi dice, vi insegna lo screenshot. Ah, se gli esempi sono questi, come pensate che possano cambiare le cose? Allora, io ho messo, mi sembra, parecchia carne al fuoco. A un certo punto avete smesso di fare domande. Non so che ora abbiamo fatto. Un po' tutti questi temi sono soprattutto nella prima parte del libro. La seconda parte è molto più ottimistica. No, ve lo dico anche perché sennò sembra che, cioè, prova anche a dire da dove si potrebbe ripartire, ma naturalmente non potrà mai essere uno di 50 anni a dirlo, uno della vostra età. Cioè, è bene avere le basi, aver capito le PR, aver capito come funziona l'industria dei media, per carità, però soprattutto è un tema generazionale, ecco, questo ci tenevo a dirlo. Ma io direi, oggi facciamo così: invece di fare la pausa, chiudiamo, diciamo, facciamo due domande, chiudiamo, andiamo, esatto, andiamo avanti con il dibattito e poi finiamo prima, in modo tale che così poi siete più tranquilli. Sì, prima delle domande che ci sono, io volevo fare un po' lo stimolatore, perché ci sono tantissimi elementi che sono stati, insomma, lanciati, no? Tanti sassolini che sono stati lanciati, tanti elementi su cui si può discutere. La prima cosa che mi viene da chiedere è, facendo appunto un po' il provocatore, ma poi alla fine l'uso di internet necessita, essendo così complesso, un addestramento rispetto alle generazioni che si ritrovano a utilizzare questo strumento tecnologico con una modalità che è sempre stata la stessa, anche ad esempio nell'affrontare, non so, un nuovo software, non esiste, ma nessuno si va mai a leggere il manuale, no? Tutti imparano facendo. Il fatto che fanno anche dei prodotti in modo che non ci sia il manuale, ce l'ha insegnato la Apple, che se un prodotto ha un bisogno di un manuale vuol dire che è fallimentare. E scusa, c'è una domanda, rispondo prima a te, rispondo. Sì, e poi dopo. Allora, no, allora, io più che all'educazione a usare lo strumento, che mi sembra diciamo un po' una lotta ai mulini a vento, no, ve lo dico anche perché su Twitter cosa si fa con lo strumento l'hanno deciso gli utenti, cioè sono stati gli utenti a inventare l'hashtag. Anche Tumblr non era partito per fare content curation, era microblogging, quindi sono le persone con l'uso che stabiliscono qual è la unique value proposition della piattaforma. E infatti poi Tumblr a un certo punto ha detto ok, noi siamo questo, l'abbiamo capito perché gli utenti lo usano per fare questo. Twitter è diventato così perché sono gli utenti che ne hanno fatto un certo uso. Quindi non c'è un'educazione tecnica allo strumento, però ecco, invece è importante, una, soprattutto per voi che fate questi studi, la consapevolezza di dove vanno i nuovi linguaggi. Questo è molto importante, cioè vedere, per esempio, adesso faccio un altro esempio, nella televisione, ne parlavamo proprio l'altro ieri a Medioera, no? Probabilmente anche l'era dell'aggressione, l'era predatoria, come cifra unica della televisione, i programmi tipo La Zanzara, Le Iene, no? Dove alla fine quello che fai vedere è uno che aggredisce un altro con un microfono in mano, o lo ricopre di parolacce, insulti, lo prova. Forse stiamo in un'era post-predatoria, perché la suora, per esempio la badessa, ha fatto una splendida figura praticamente senza nessuna educazione a questo linguaggio sopra le righe, no? Io vedo molta più aggressività su Facebook nei commenti tra cinquantenni. Cioè, se una signora di questa età torna dalle vacanze e pubblica 60 foto bellissime di lei in costume da bagno, eccetera, dopo 60 amiche che gli fanno i complimenti, ci sarà una che scrive: ah, ma vedo qualche ritocchino, e da quel momento parte una sequenza di insulti senza fine. Cioè, si ritorna a che cosa? All'amore vince sempre sull'invidia e sull'odio, frase del 2010. Ecco. Allora, c'è molta contrapposizione naturalmente anche nelle giovani generazioni, però è una cifra completamente diversa, perché tu non metti in discussione uno status, non metti in discussione un ruolo nella società, eccetera. Quindi, cioè, mi pare di capire che un po' di pulizia senza nessun maître à penser che vada lì a dire la nuova netiquette stia arrivando. Beh, poi del resto, scusatemi, anche sull'autobus io vedo i ragazzi della vostra età molto più educati, si alzano quando arriva una persona anziana, invece se vedi una persona seduta di 60 anni, arriva uno di 70 anni, raramente si alza. Sono proprio fenomeni. Quindi l'educazione a internet, francamente, per me è un po' un ossimoro. Invece l'educazione, capire dove vanno i nuovi linguaggi, questo sì, questo lo dovete fare, e lì c'è molta teoria, e lì anche i vecchi grandi santoni, quelli leggeteveli, perché per esempio adesso è uscito un libro che ho presentato a Medioera a Viterbo, quello di Bruno Mastroianni, La disputa felice, è un libro che dà parecchi strumenti su come affrontare le discussioni su un piano non più identitario ma nel merito. Si può veramente disputare, cioè essere perfettamente in disaccordo senza scannarsi e senza darsi subito del grillino, del renziano o del salviniano, ecco. O un poraccio, oppure... cioè, imparare a discutere. Imparare, sì, questo è veramente il minimo, ma molto più importante questo che imparare a usare bene Facebook. Cioè, se fate i social media manager, ok, ma non è una roba... Cioè, io vi auguro di fare cose più interessanti, francamente, del social media manager. C'era una domanda? Stavo pensando, ma una sorta di educazione comunque all'internet, cioè... Aspetta, io vengo lì, così viene anche registrata la tua domanda. Grande tecnologia questa. Dicevo, secondo me una sorta di educazione all'internet, cioè, perché adesso per, come si chiamano, youtuber, come li chiamano, influencer... li invitano alle sedie di New York, alle sedie di non so dove, a Google, YouTube, e da loro stessi ci viene detto: non vi possiamo dire questo perché stiamo progettando tale cosa. Quindi alla fine una sorta di controllo, di insegnamento, anche sta diventando una un media giornalistico, perché c'è un attraverso questi grandi siti una sorta di controllo, perché non ci possono dire fino a che non gli danno il permesso. Ma questo, allora, posso dirvi, io abolirei, oltre alla parola fake news, abolirei la parola influencer, perché in realtà ciò che esiste ancora sono due cose molto vecchie che sono sempre esistite, a prescindere dal fatto che siano nel mondo digitale. Allora, una sono gli opinion maker, e questi esistono ancora e fanno parte di un mondo che si chiama earned media, dove tu ottieni il giudizio di persone influenti senza pagarli. Gli opinion maker sono sempre esistiti, anche negli anni 60, per dire, esistono anche oggi. Per esempio, noi lavoriamo in team, è chiaro che ci sono persone che scrivono del futuro della rete, sono giornalisti, accademici, eccetera, questa gente non viene pagata, ma è importante che dicano cose che supportino i nostri progetti, il nostro famoso piano DigiTeam, eccetera. Ci sono tante attività che potremmo definire di antichissime pubbliche relazioni con regole che vanno benissimo anche per i tempi di oggi. Forse bisogna essere un pochino più rapidi nell'ingaggiarli, perché è tutto più veloce, però si parla di reputation management, okay? Cose che esistono da sempre, che ha inventato forse Harold Barson, sì. Negli anni 50. Poi c'è una seconda categoria, che sono i testimonial. Anche questi sono sempre esistiti, e sono questi che normalmente vengono chiamati gli influencer, che vengono giustamente pagati. La cosa buona sarebbe se fossero pagati sempre in modo trasparente, cioè se loro stessi dicessero: mi hanno pagato per dire questo. Ma va benissimo, perché? Perché questa gente non fa altro che rivendere a dei brand una audience. Vedete come sono parole vecchie? Non c'è l'engagement, il reach, la community. No, questa è solo gente che ha una audience. Chiara Ferragni è un genio, ha una audience e la gestisce come la gestiva. Però la genialità di Chiara Ferragni è che l'ha fatto tutto da sola, senza andare da un centro media, senza andare da un agente, eccetera. Ho capito il funzionamento della piattaforma, l'ha utilizzata. L'ha utilizzata in quel senso lì. Ha fatto, cioè, è un'imprenditrice. Ma adesso qua, quando lei mi chiede l'educazione a internet, non è che vi stiamo insegnando a diventare imprenditori, cioè io l'ultima cosa che vi direi è provate a diventare come Chiara Ferragni. Ok? Poi vi tocca sposa Ferragni. Però c'è il vantaggio del figlio già tatuato. Comunque, è nato tatuato, non sapevo. No, questa è la prima battuta che è stata fatta. Però ecco, chi ha fatto questa battuta è stato sepolto dagli insulti dei fan di Fedez e di Chiara Ferragni. Attenzione, è un modo di diventare famosi, però. Sì. Sì. Allora, recentemente hanno pubblicato, se non sbaglio, nel quartiere Aurelio un post pro vita di un neonato, cioè un embrione, diciamo così, un embrione a tre mesi. E poi il manifesto, il post. E così scorrevo la home di Facebook, ho trovato un utente che pubblicava un articolo che invitava alla rimozione di questo manifesto. Tra i commenti leggo: visto dal vivo passando in macchina in estrema tranquillità, sarebbe da dar fuoco al manifesto, a pro vita e a tutti gli obiettori. Ma così al volo, senza pensarci troppo, che ci rubano troppo ossigeno. Ora, questo è un caso, così me lo sono salvato perché era... È un caso dell'altro ieri questo. Esatto, più recente, ma ce ne sarebbero anche tantissimi altri. Allora, io sulla base di questo volevo chiedere: quanto secondo lei il pluralismo di internet possa contribuire ad accrescere le potenzialità e la forza delle democrazie occidentali? Io sono sempre stato molto scettico tutte le volte che mi parlavano di digital democracy. Anzi, guardo con grandissima sospetto, ho sempre visto con sospetto gli americani, che invece serenamente vanno a votare sindaci, loro votano anche i giudici, con il sistema elettronico. E adesso però siamo su una scala, cioè, allora, sotto il profilo proprio della tecnologia per l'espressione trasparente o comunque protetta del consenso, protetta nel senso di proteggere l'articolo 48, che dice che il vostro voto è personale, già personale non è molto uguale, ve la ricordate, libero, segreto, Personale uguale libero e segreto. Digital democracy no. Poi nella distorsione della formazione del consenso sulle questioni tipo pro vita che danno il successo a un politico rispetto a un altro, assolutamente no. Anzi, vi posso dire, faccio un altro esempio. L'Italia è un paese dove il divario tra la percezione del comune di quanti sono, di quant'è la percentuale di immigrati in Italia e il dato reale, in tutta l'Europa 27 l'Italia è il paese dove il divario tra reale e percepito è più ampio. Due anni fa c'era un'inchiesta della Carta di Roma che diceva che il dato reale era l'8% e il dato percepito era del 28%, e già allora c'era un 20% di divario tra dato reale. Adesso siamo che il dato reale è sceso, perché questi se ne sono andati giustamente in Francia, in Austria, siamo al 7% in Italia, e il dato percepito è 31%. Chi vince poi le elezioni? È quelli che hanno detto che siamo sotto questa minaccia, eccetera. Allora, punto primo. Punto secondo, chi sono i colpevoli di questa gigantesca fake news? È Salvini che viene invitato a tutte le trasmissioni? Oppure il politico buonista di sinistra che sa che lui continuerà a esistere sui media solo se risponde a Salvini? Ora, il problema è che chi fa la trasmissione, se non ha il politico di sinistra che dà legittimità alle posizioni di Salvini, non fa audience e la trasmissione viene tagliata. Adesso le trasmissioni pro-salviniane dopo le elezioni sono state tagliate. Perché? Primo, perché le elezioni si sono già svolte, ma soprattutto perché si potrebbe tornare a votare e Berlusconi ha capito che potrebbe non essere... Ha capito che lui sperava di rimanere sempre il primo partito della sua coalizione, invece non lo è stato più, quindi ha capito che questa cosa è meglio che finisca. Comunque, scusate, questo per dirvi che il vero piano drammatico è la distorsione nella formazione del consenso. Però all'interno di questa cosa dire che la colpa è più della rete che dei media tradizionali, sì, è vero che c'è il problema degli articoli virali, dell'odio, di tutti i commenti che partono, però ciò che scatena veramente l'odio a quel livello è la sensazione di essere passati sopra una linea rossa, dove c'è poi però un palcoscenico di molto old style. Faccio un esempio: quando ci fu la slavina all'hotel Rigopiano, successe che oltre a quella decina di persone che morirono sotto la slavina, grazie a una straordinaria operazione di recupero, fu salvata praticamente illesa sotto la neve, sotto le macerie, una ragazza che aveva anche la disgrazia di essere una ragazza carina, che sul suo profilo Facebook, 2 o 3 giorni dopo l'accaduto, si sentì in obbligo di ringraziare chi l'aveva salvata. Nel frattempo era stata intervistata dai telegiornali, era diventata in quei giorni, era sui giornali, televisione, eccetera. Quindi in quei giorni era una celebrità. I commenti sotto questo suo semplice ringraziamento erano tutti commenti di odio, perché lei era stata miracolata, perché non pensava alle vittime, perché ma come ti permetti rispetto al dolore di chi è morto, eccetera. Allora, cos'è che scatena tutto questo? La volontà di determinare un diverso tipo di consenso? Secondo me è l'opportunità di salire su un palcoscenico, perché poi quei commenti di odio avevano 3.000 like. Perché avevano 3.000 like? Perché quel post era stato shareato 300.000 volte. Quindi se quel post di una che in quel momento è una celebrità diventa una televisione, un canale televisivo, un talk show, perché quello è diventato, 300.000 persone lo guardano, è un talk show. E chi commenta è come se fosse un ospite del talk show. Ho l'opportunità di parlare a un talk show. Come ottengo 3.000 like? Insultandola. Che fai? E insulti. Cioè, ciò che ti funziona per farti diventare visibile, la gente lo fa. Perché? Perché siamo abituati da anni di sgarbi, da anni di funari e compagnia. Io volevo riallacciarmi proprio a questa cosa qui. La domanda che volevo fare era proprio qual è la linea di demarcazione, cioè questa linea rossa della volgarità. È la linea della celebrità. Avrà, sì, ma è, cioè, mi sembra impossibile che non abbia un limite, che non abbia più una censura. Io mi ricordo tempi in cui Mina dovette uscire fuori dalla scena perché era rimasta in stato interessante per una... E le Kessler con le calze Kessler color carne. Qui siamo arrivati alla visibilità in Rai che rappresentava. Certamente, però da lì a quello che stiamo vivendo oggi, e poi non sono una con il paraocchi, cioè sono una veramente a 360 gradi, quindi faccio questo solo, diciamo che sto osservando questo percorso. Dove andremo a finire? La domanda è questa. Il mezzo tecnico ci sta mostrando che siamo molto più maleducati di quanto pensavamo. Sì, cioè, no, ma la mia domanda è, io pago il canone Rai per sentire Sgarbi che riempie di volgarità. Ma Sgarbi vende bastoncini di pesce, cioè la Rai vive della pubblicità. Se Sgarbi è un grandissimo critico d'arte, è una persona di straordinaria intelligenza, però non è famoso per quello. È famoso perché a un certo punto al Costanzo Show ha insultato una giovane scrittrice. Costanzo, che è un grande esperto di comunicazione, ha detto: caspita, funziona, ho fatto il 3% di share in più, richiamiamo questo, ma non per parlare del Caravaggio, per insultare un'altra scrittrice. Comincio a preoccuparmi, perché vuol dire che siamo noi che diamo allora il merito a questi personaggi di continuare a fare. Siamo noi che continuiamo a comprare quei prodotti. Nerone ha costruito il Colosseo. Cioè, scusa, c'era una, prima della tua c'era la domanda sua. No, vabbè, volevo appunto dire che questo tipo di comportamento, questo voler superare questa linea, deriva anche proprio dal fatto di stare dietro uno schermo, perché io non ce li vedo quelle persone a insultare quella ragazza dal vivo. Non lo so. Quindi il mezzo ti consente anche una sicurezza che in realtà non hai, però. Sì, però sull'anonimato, visto che mi fai un assist, è verissima questa cosa. Naturalmente siamo protetti. Certo. Beh, allora è chiaro che anche. Vi ricordate quando Radio Radicale fece aprire le segreterie telefoniche a cavallo tra Natale e Capodanno? Si capì la gente protetta da un anonimato di che cosa voleva parlare. Ascoltatevi quei nastri, parliamo di un'epoca pre-internet, si chiama Radio Parolaccia, fate una ricerca su questo e la dice lunga. Però sull'anonimato, attenzione, perché per esempio per la Costituzione americana l'anonimato è considerato una premessa per la libertà piena di espressione. Ora, probabilmente il mondo è così cambiato che quell'articolo della Costituzione è un po' superato, me ne rendo conto. Però attenzione, perché se andate sui forum femminili, quindi non su Facebook, no? Andate sui forum delle riviste femminili, ci sono delle storie sconvolgenti di violenza a danno delle donne che vengono raccontate in forma anonima dalle donne. E non sono femminicidi, cioè non è quella cosa che io apro il giornale, vedo femminicidio, chiudo il giornale e dico: oh, che cosa brutta, a casa mia non succederebbe mai, per fortuna. Quando invece magari a casa mia tutti i giorni maltratto mia moglie psicologicamente o gli faccio dei piccoli ricatti, eccetera, no? Quindi femminicidio è usato come, come si dice... Come copertura, no? Per dire, siccome è un fatto di cronaca, io vivo nel mio mulino bianco e da me non può succedere. I dati dell'Istat dicono che in una casa su due le donne subiscono violenze di cui nessuno mai parla, se non fosse per l'anonimato che su internet permette di capire, dietro i dati Istat, esattamente che cosa sono queste violenze psicologiche, quindi esattamente in che cosa dovremmo diventare un paese civile. E cioè, ti raccontano piccole frasi su perché non devi uscire vestita in quel modo, perché stasera è meglio che stai a casa, perché stasera è meglio che guardi il film, guardi i ragazzi, cioè, tante cose che dicono cosa c'è dietro quel dato. Non lo sapremmo se non fosse per l'anonimato, c'è poco da fare. Quindi non è internet, prima c'erano le lettere anonime ai giornali. Però era intermediato, perché il giornale diceva: la pubblichiamo questa, non la pubblichiamo, funziona per il giornale, non funziona. Quindi attenzione, perché anche l'anonimato è come dire, una realtà a due facce. Ah sì, scusa. Allora, parlando appunto di animato e parlando appunto comunque del concetto della gente che scrive commenti, questo alla fine è anche un po' un problema attuale della cosa della prestazione dei contenuti che abbiamo anche sulle nostre piattaforme, il fatto che il dramma, il creare appunto situazione in cui oddio mi ha offeso questa persona, quindi il dramma è una cifra identitaria soprattutto tra gli adolescenti, non esisti se non sei una piccola drama queen. Però il punto è che invece i produttori, i creatori di contenuti, soprattutto delle piattaforme come YouTube, a volte fanno degli ottimi lavori artistici e comunque anche molto importanti sotto diversi aspetti, però vengono veramente outclassati dal fatto che vengono... Verissimo. Ma quello che abbiamo visto prima, quello che risponde all'hater, è una drama queen che impedisce a un Tristram, che ha fatto solo 150.000 follower, che però è un grande creativo di YouTube, di arrivare a 1 milione di follower. L'avete mai visti? Letti, a proposito di odio online, secondo me la cosa più straordinaria sono i commenti e i video su YouTube. Perché tu su quella piattaforma proprio non entri minimamente mai a contatto con persone del tuo stesso ambito. E quindi la leva che ti spinge a commentare lì è sempre solo o mi piace tantissimo e poi subito sotto c'è quello che invece odia il video e quindi comincia a litigare con quello. È esattamente la stessa cosa che succede quando siamo in coda alla posta o in macchina a Roma in un ingorgo. Qual è l'unica causa di entrare in l'unico motivo per entrare in contatto con uno sconosciuto? È perché c'è qualcosa che non va. Cioè, io non ho mai visto due automobilisti solidarizzare tra un finestrino e l'altro. Se ho visti solo fare gestacci o mandarsi a quel paese, spesso poi dopo scendono e se le danno anche di santa ragione. In coda alla posta, perché o c'è il discorso tra vecchiette, signora mia, dove andremo a finire, eccetera. Scusi la citazione. Ma, oppure proprio ti arrabbi perché qualcuno ha saltato la fila alla posta. Ma guarda che incivili, ma guarda qua dove andremo. Cioè, tutto questo su scala, i social media ti danno l'opportunità di farlo all'infinito. Fondamentalmente la leva che uno esercita è: mi sento migliore degli altri facendo questo. E quindi di qui le invocazioni all'abolizione del suffragio universale o all'asteroide, cioè un ritorno a una specie di nuovo medioevo che faccia di nuovo tabula rasa di tutta questa gente che però incivile, che però è sempre esistita, e internet semplicemente ci fa capire la dimensione della nostra inadeguatezza, delle nostre sgrammaticature, della violenza che abbiamo dentro e che prima era tenuta sotto il tappeto. Anche il famoso cyberbullismo, è vero che se tu hai la possibilità di filmare e pubblicare su YouTube un atto di bullismo moltiplichi l'effetto di umiliazione della vittima, è verissimo, però perché se la prendono tutti con YouTube e nessuno con le Iene che la sera prima in prima serata ti fa vedere un atto di bullismo addirittura ammantato di difesa dei deboli, no? Con gli stessi strumenti, una telecamera, un microfono, questi lo mandano in onda, fanno 10 milioni di telespettatori, perché io, ragazzino, che ho il cellulare, cioè non mi sta antipatico, penso di essere io nel giusto, lo riprendo, lo pubblico su YouTube, faccio bene a farlo perché la TV mi ha detto che fa bene farlo. Prima parte del capitolo cyberbullismo. Seconda parte, noi non sappiamo cosa succedeva nelle scuole prima di YouTube. Esatto. Quindi io parlerei più del problema del bullismo che del problema del cyber, che è gravissimo, anzi grazie a internet che ci hai fatto capire quanto è grave, quanto tocca non solo i ragazzi ma anche le ragazze, quanto al primo anno di liceo ti prendono la testa e te la mettono nel lavandino, c'è sempre stato, arrivi tutto bagnato in classe, c'è il nonnismo. È sempre stato, però ai tempi quando non c'era YouTube che te la sbatteva in faccia, questa cosa i genitori dicevano così si fanno le ossa, imparano a stare al mondo. Cioè c'era questa cultura conradiana per cui, non so se avete letto Lord Jim di Conrad, lui diventa un uomo solo quando si confronta in una little society dove tutte le classi sociali sono rappresentate, cioè il peschereccio. Quindi deve andare d'accordo col mozzo, deve andare d'accordo col nostromo, col pescatore, con l'avanzo di galera che sta giù in sala macchine, eccetera. a quel punto sei un uomo. E allora, siccome c'era questa, diciamo, visione, la scuola era anche questo. Cioè, se tu non ti sai far valere lì dentro, però poi quando questo mostrare in video che cosa vuol dire sapersi far valere lì dentro, cioè quando questo viene rivelato, oddio, YouTube sta corrompendo i nostri ragazzi. Quindi, ripeto, è vero ed è scientificamente provato che l'emulazione, lo strumento tecnologico, la possibilità di fare scala, tutta una serie di cose, che la tecnologia facilita certe cose, ma dare tutte le risposte a un problema che esiste da sempre con la tecnologia è ridicolo. Così come anche uscirsene con una decreto legge a metà luglio che si inventa il garante, eccetera, a me sa più di modo per il firmatario della legge di avere un titolo di giornale che di reale volontà di risolvere il problema. Tra l'altro questo mezzo poi mette in luce i fenomeni. Anzi, ecco, c'è un altro libro che vi consiglio di leggere, che parla molto di più di questo effetto rivelatorio di internet e che si chiama Luminol di Maffer e Baggis, è uscito per la stessa casa editrice Informant, anche questo lo trovate su Amazon. Autore è Maffer e Baggis. Bene, altre domande? Siete stanchi abbastanza? Vabbè, ringraziamo Antonio Pavolini. Grazie a voi. Noi ci vediamo la settimana prossima.